Il bilancio è stato presentato come un documento di continuità di questa amministrazione sulle linee di programma dei primi anni della Giunta Lepore e quindi sono tante le cose per noi che non vanno. Le abbiamo dette e le abbiamo scritte. Innanzitutto Bologna è una città costosissima, noi pensiamo che il Comune debba intervenire per ridurre il costo della vita, intervenendo sulle partecipate, ERA e TPER. Altro che aumentare il biglietto dell'autobus, andrebbe regalato 6 mesi di abbonamento gratuito a tutti. E poi anche su altre cose fondamentali come la casa, noi pensiamo che sia un'emergenza, va fatto il censimento delle case sfitte e non possiamo permettere che il Comune dia il via libera a un'altra partecipata che è ASP per trasformare immobili pubblici in residence di lusso e trasformare negozi in appartamenti oppure fare convenzioni con studentati privati con costi pubblici per il pubblico a prezzo di mercato. Queste cose qui vanno respinte, noi pensiamo che sia necessario fare opposizione e costruire anche su questo un'altra idea di Bologna. Sulle partecipate, voi dite, pensa troppo ai dividendi, ai manager, e quei profitti lì invece dovrebbero essere reinvestiti per i cittadini. Certo, non solo andrebbero reinvestiti, ma bisogna intervenire per ridurre i costi ai cittadini. Era una partecipata dove il Comune di Bologna esprime il consigliere d'amministrazione, dà linee di indirizzo insieme agli altri comuni e gli altri enti locali sulle politiche di ERA. Siccome è previsto un aumento incredibile del costo del gas e del riscaldamento per tutti i cittadini, il Comune dovrebbe intervenire su ERA per ridurre il costo delle utenze, non far finta di nulla perché questo fa comodo ai soci privati. La nuova giunta, cosa c'è che vi convince, cosa c'è che non funziona? È difficile capire quali sono le vere novità, è un valzer dove sostanzialmente si presentano persone che già facevano parte della maggioranza o del PD o addirittura dell'amministrazione, come nel caso della capo di gabinetto che diventa assessora. Noi pensiamo che la svolta debba essere fatta sugli elementi di programma e sulla gestione della città, non cambiando i volti e casella, questo o quell'altro incarico. Vorrei soltanto leggere questo passaggio, che è un'intervista fatta al nuovo assessore alla mobilità, in cui dice: cambia l'assessore ma non cambia la linea di amministrazione. Quindi questa è la prima affermazione, continua con: nel senso che il mio assessorato sarà sicuramente in continuità con il lavoro fatto fino ad ora. Quindi io credo che ci sia poco da dire e tutte le mancanze e tutto ciò che è stato destrutturato dal punto di vista sociale, quindi del benessere sociale, continuerà ad essere, cioè non c'è nulla di diverso. Sulla mobilità che cosa non ha funzionato finora e che cosa va cambiato? Sulla mobilità, possiamo parlare di quelle che sono le grandi opere che vogliono portare avanti e continuano a portare avanti e che non aiutano assolutamente in quello che può essere un progetto futuro di reale cura dell'ambiente e della salute. Cioè, hanno fatto un tram che invece di collegare le periferie che non riescono a collegarsi, anche le prime periferie, tipo Pilastro Bolognina, cioè in macchina 5 minuti, in autobus 35-40 minuti e non c'è la domenica, come se la gente non lavorasse anche di domenica purtroppo. Quindi di fatto non c'è un intervento, oltre a spendere miliardi, non c'è di fatto un intervento che sia sostanzialmente di supporto alle persone. C'è un'incapacità ad ascoltare, un'incapacità empatica di queste persone che salgono a gestire, ad amministrare, dicendo che vogliono farlo, e poi mi fai un gassante, come lo chiamano, sotto le finestre e non vogliono che si faccia un'indagine di impatto sulla salute. Siamo praticamente la regione più inquinata d'Europa e continuiamo a sostenere l'uso della gomma, quindi del trasporto su gomma. Ieri la classifica del Sole 24 Ore, Bologna ha perso 7 posizioni in questa classifica. Perché c'è meno benessere in città? Allora, le faccio questo esempio. Io ho un lavoro, un contratto stabile, non trovo casa. Solo nel centro di Bologna ci sono oltre 4.000 immobili, attenzione, non case, immobili destinati alla Airbnb. Questo fenomeno lo troviamo anche nei paesi adiacenti. Cioè, si allargherà a macchia d'olio, dove chi come me, quindi non soltanto le povere persone che non ce la fanno a pagare un affitto per tutta il disastro, diciamo, salariale e lavorativo che hanno creato anche loro, ci sono anche persone come me, lavoratori, lavoratrici, come quel poveretto che è morto nel garage, che non riescono a trovare una casa. Questo è un altro punto politico, approfittarsi in questa maniera di quello che sono le necessità, i bisogni fondamentali delle persone.